qualcuno qui? Hola, hola, hola, hola. Luca mio, Lugaglio che vuole in macchina. Allora, ho usato la macchina dopo 2 mesi circa. Era quasi 2 mesi ferma, caricata la batteria, messa oggi, fatta la spesa da Lidl. E ho preso un saccaccio di roba, altro che Copec. E vai, vai, pirata. Appena sta lì. Ma c'era un caldo boia, c'era gente a maglietta, ragazze in pantaloncini e canottiera, ogni aggaglio. Per fortuna mi ero messo i pantaloni estivi, super sottili. Di Lambert, ciao Atali. Di Lambert. L'ospite sta, si moriva, guarda. Ah, lui gli ha fatto 26 gradi. Ehi, ah, poi Nathalie, abbiamo lo stesso problema, no, di parcheggio, no? Io con una marea di roba sono tornato a casa e poi non ci sarà posto. Guardo e c'erano 2 parcheggi enormi. Praticamente ho occupato lo stesso parcheggio dove era la macchina 2 mesi ferma. Che culo! Ma di quelli grandi proprio? Di lungo, no? Di lungo, parallelo al panciapiede. 2 parcheggi. Infatti ho scaricato tutto. Io, sai cosa, io non andavo dello spin da Lidl per non muovere la macchina, però come che cara, tutta roba di marche Findus, se ti guardi in bagaglio, beh, ui, già è buona la roba Lidl, certo, non devi mangiare solo quella, bisogna variare, no? Preso la sabbia dei gatti, anche dello spin sono passato, la sabbia dei gatti rossa, perché questa qua grigia è una porcheria, 2 cartoni di acqua, vino, amaro, di tutto. Stanotte mi ubriaco pure. Vai Luca. Luca non riprende, evidentemente è impegnato. Ma che tu sappia, l'M93 si può amplificare di più. Dunque, io so solo che non spinge tantissimo, no? L'M93 non spinge tantissimo. Però ricordati che tu, volendo, puoi aumentare la LC. Io l'ho fatto, ha migliorato non tanto, tantissimo, ma ho Nathalie. Cioè si sentiva la netta differenza, capito? Con quell'apparato lì. Con questo forma. No, mi riferivo a quello bello. E quello è uno che mi avevano prestato, no, non ce l'ho più quell'apparato. C'ho questo qui e boh. Quello là vuol dire che era chiuso. Ah, vabbè, prestato, vabbè, ho capito, peccato. Il Polmar, oddio, io dentro non l'ho mai visto quello lì. Però vuoi che non abbia una LC dalla M o la deviazione FM? Boh. Comunque in FM va bene e non va toccato. In AM si può migliorare appena appena senza però andare oltre la percentuale di modulazione, no? Per averlo omologato. Se lo apri questo per dire l'omologazione. Perché penso che ci sia quel nastro isolante che mettono proprio per non aprirlo, io penso. Guarda il tuo, il mio è attaccato fisso, toccherebbe smontarlo per vedere. Oddio, io non so nemmeno se abbia adesivi laterali, lo sai. Non lo so se abbia adesivi. No, comunque se lo modifichi per dire l'omologazione. Vabbè, se lo apri e guardi dentro, vabbè, se c'è l'adesivo al lato, se lo rompi è chiaro che più che altro perdi la garanzia, non so se sia in garanzia il tuo ancora. Sì. L'ho comprato nuovo. Comunque quello che mi avevano apprezzato, tu lo sai come si apre la LC? Io ti rispondo che mi ho risposto a coso. da una persona, io anni fa me lo ricordavo, anni fa quando l'ho fatto, ma adesso non me lo ricordo più. Però presumo che ci sia scritto sul trimmer A-Mod, A-Mod, attaccato, A-Mod, che vuol dire AM Modulation. Però quello dico, quello nego, sai che ne ho visti tanti apparati e non ricordo qual è l'uno o qual è l'altro dentro. Comunque un'occhiata si può buttare, no, non succede niente. E infatti un'occhiata ci vuole. I catalizzatori antintuttivi ce li abbiamo. Naturalmente una cosa è sacra, non bisogna andare a tentativi, perché se tu vedi un trimmer e non sai a cosa serve, lo giri e magari poi non scopri subito cosa è, e poi ne giri un altro. No, no, devi sapere qual è. Una volta che sai qual è, ti regoli, eccetera. Caspita che tempo c'è, guarda. Ma ne sto mangiando le balle e non si può andare in spiaggia. Porca miseria, le spiagge interdette. Si può andare a pescare, ma le spiagge sono interdette al pubblico. Si può andare a pescare dagli scogli. Oh. Perché se sei in una spiaggia deserta, chi contagio, chi ti contagia? Oh. Ci stanno facendo rosolare bene, capito? Come ha detto uno youtuber. Infatti è un macello. Ma lo schema non c'è elettrico di quell'apparecchio lì, io non ce l'ho. Allora fammi pensare, lo schema elettrico dovrei guardare sul manuale online se c'è, oppure se c'è, adesso guardo, mi c'ho internet sotto mano. Luca, se ci si riprendi, dai. Poi Natalia, come ho portato le buste sopra, i pesi, c'è stato un attimo che stavo per perdere la fede. Allora sono andato subito in bagno, mi sono bagnato il viso con l'acqua corrente e mi sono bagnato dietro la nuca perché stavo scoppiando proprio. E poi temo l'infarto, io mi, col caldo, quando fai le cose in fretta e porti i pesi, temo l'infarto. Già il mio cuore non è un granché, è un po' ballerino. Comunque Natalia, io dallo schema elettrico non ci capisco bene una mazza, a meno che sai qual è il più utile, come si chiama, il manuale di servizio, cioè ti dà l'allineamento, ti dice VR tal dei tali, per esempio modulazione M, VR tal dei tali, potenza, VR tal dei tali, deviazione FM, capito? Il manuale di servizio è il più utile, adesso vero ce lo trovo. Oh, Nataloide, ci sei? Ma che ci so? Allora, no, sul manuale non c'è, almeno a Nippone non c'è lo schema. Ho trovato un manuale di servizio, però parla più che altro di allineamenti di Smith, di altre menate, tutta roba di oscilloscopio, esce a vedere. Sì, di allineamento in USB, non c'è quello che è. Dai, fammi guardare ancora. Allora, sì? Dimmi. Ovviamente è tutto in inglese. Allora c'è Aniton 5555 V5 Tuning POTS. POTS sarebbero i trimmer, no? A-Mod IS, AM Modulation, cioè ci dovrebbe essere scritto sopra, a fianco al micro trimmerino, A-Mod, che sarebbe AM Modulation. Quindi non c'è una scritta tipo VR, RV, no, c'è scritto A-Mod, così dice qua. E quindi una volta che uno lo vede, che c'è scritto, è quello. Però mi è talmente piccolo che non capisci qual è il sotto e qual è il sottomi, e mi pare che va girato non in senso orario ma in senso antiorario, al contrario dei trimmer di un 3009, in poche parole. Vedremo di guardarlo. E poi mi raccomando, usa cacciaviti antinduttivi che siano giusti per la microscopici, mi puoi non forzare, non, poi sono talmente minuscoli che non senti il fondo corsa. E uno, come è andato a regolarlo, lo sai, gli è saltata la testa del trimmer. Eppure l'ha fatto in modo delicato, figurati quanto sono delicati queste cose. Infatti, perché ho attaccato l'MB più 4 e dice che non amplifica molto, Claudio. Eia, naturalmente i fattori sono due, no? Non amplifica molto perché l'MP4 se di fabbrica spinge ma non più di tanto, se spinge di più lo devi modificare, però io prima di modificare l'MP4 preferirei, questo è un il mio pensiero personale, agire sul trimmer della M. Ecco. Che è poi inutile avere a Natalia anche radio spropositatamente amplificate, cioè a cosa serve? A spaccare le timpani alle persone. Lo dovresti sentire per renderti conto, se va bene a lasciarlo così. E con calma facciamo tutte le prove. Mamma mia. Sì, sto guardando. In questo sito maledetto World Wide DX ci sono anche dei service manual. Ecco lo schema elettrico, però non me lo fa aprire. Si deve registrare al sito inglese. Potrei provare su Roger K per lo schema elettrico, che comunque è meglio averlo, anche per eventuali riparazioni future. Su Roger K posso guardare per lo schema elettrico. Infatti. Ehi, allù, siamo qua, stavo cercando uno schema elettrico. Ehi, dai, che è arrivato un amico qua, che devo dargli roba. Sono rientrato. Ehi, adesso vediamo che ora è. 5.25, ancora è presto per mangiare per me. Alle 6 provvedo, dai. Mamma mia. Pensa che per uscire mi sono messo le scarpe più leggere che avevo. Che praticamente sembrano degli anfibietti, ma sono fatti in tela. Hai presente le scarpe All Star, no? Questi sembrano anfibietti militari, ma sono fatti in tela, traspirante, e sono perfetti per l'estate. Naturalmente la punta e la suola in gomma, ovviamente. Ma io servo le... come si chiama? Le Adidas, quelle semipelle, là. Mancato, guarda, con le calze, con le finestrini, le fantasmine, là. Sì, comunque c'era caldo, cazzo. Via, cioè, a piedi, ancora, ma in macchina, per carità, guarda. Poi io, vabbè, lo soffro di mio il caldo, e quindi. Vediamo questa foto. Bella spinta questa foto, Allora, Natalino, udisci. Ma Cocconno? Chi è? Buonasera a tutti, doppio room. Oh, ciao già, senza il bip, credevo che fosse Antonio in riserva quasi. No, ma so arrivo perché. No, a parte che a me Antonio riserva arriva bene, perché è lì in alto. È vicino a me Antonio Risa, gli altri arriva basso, a me arriva almeno 9 più 20 mi pare. Allora va bene, dai. Allora vuol dire che sto uscendo bene, con chi sei? Che è appena acceso? C'è Natalino Alfa 1 e Luca Lucariello. Luca, come ti devo chiamare in nominativo? Lucariello, Luca Manicomio, come vuoi ti chiami? Poi sono indisposto e non voglio roba più da a far culo. Allora, io già ho mangiato di brutto io, Oggi ho fatto peccato. Sì, vabbè, è morto di papa, là. Due cc di insulina in più, capito? Guarda, va bene, là. Invece io sono... Allora, mi è successo un altro problema, sono andato a fare la spesa dello spinne. Di solito nei negozi c'è il bagno per i clienti. Ho detto, ma un ragazzo se c'era un bagno, non la faccio più già, non ce la facevo più. Mi fa, no, non c'è. E Marina... è andata da una ragazza che lavora lì stesso. adesso. Scusa, ma c'è un bagno urgente che deve entrare in bagno, cioè se c'è un bagno per i clienti, no, guarda, era giù, un ragazzo ha messo non ce l'era per noi, butto un bastardo, ci vuole cargo in alto. È brutto, Luca, quando succede così, se si la schiccia. Oh, yeah. Vabbè. E come mai, Lu? Sempre per quel problema là? Cosa adesso? Boh, prima di andare, prima di uscire di casa, mi sono mangiato una fiesta verso le 11. E ora l'ho fatta lì. Dice, male per quello ti ha fatto male la fiesta, ma cosa mi ha fatto male la fiesta? Ogni tanto mi si gira già, dai. Anzi, vabbè, devo pregare che ci vado spesso, c'è gente che sta giorni e giorni sta andando in bagno. Quello è più brutto, io l'ho provato dopo che sono uscito dall'ospedale, così. E ti dico, Luca, guarda, non c'è cosa più brutta. Non poter andare di corpo è bruttissimo, mamma mia. Avanti, sarà perché ero fermo, non lo so, non era mai successo. E vabbè. E poi invece mi ha preso tutto al contrario, mi ha preso. Insomma, ero scombussolato tutto canto, avevo il ferro basso, stavo male. Male da svenire proprio, mi venivano a capogiri, allucinato. Non mi reggevo in piedi, e ho passato, dai. Avanti, Marco. Sì, anch'io disabituato un po', caspita, ho fatto una marea di spesa, mi da Eurospin, cioè da Lidl, da Eurospin ho preso solo la sabbia, tramezzini, due insalate messicane, la sabbia dei gatti, no, quella rossa, e poi da Lidl tutto il resto, ma un caldo poi, guarda, mi stavo sentendo male, per fortuna ho trovato parcheggio sotto casa, per fortuna. Ah, va, va, va. Vabbè, tanto lo riserva al proposito, non è entrato. Oh, sono stato, no, chi è stato il primo a chiamare? Luca, mi pare, ha fischiato. E io ho risposto, ho fatto ciuc ciuc. Ah, l'ho sentito io, perché gli ho mandato un'antenna che si deve comprare, perché stavo mandando un'antenna, no? E poi mi ha detto che ci volevo dare un'antenna anche io. Tanto non me ne faccio niente. E mi veniva a prendere, sento che passano anche l'altro a prendere il pezzo dell'antenna. E non c'è venuto. No, stavano un messaggio. Anche quando va a venire non c'è venuto, l'ho aspettato stamattina, non sono uscito. Che è avanti? Basso basso, chi sei? Non ho capito chi sei. Basso orso? Cappa. Virgoglio, ti sento basso basso. Capito? Non so chi sei, però. Ti sento basso. Non so se c'è qualcuno che l'ascolta. Qui zero totale, ho tolto anche lo squelce, zero totale. C'è anche poco QRM, l'hai notato? È vero, anche io lo sento già. Ho sempre detto io, questa antenna è favolosa. No, parlamico di sorso, ti sento solo io, dai. Non ho capito però chi sei. Non lo senti perché? Perché si avvicina al sorso, qua arriva Santiago 1. E mi sembra che sia Mario, chiedi se è Mariolino. Ma quale Mariolino, quale Mariolino? Stavo provando quello portatile di nuovo che ha trovato la M. E dov'era? Chi l'ha visto se è andato a cercare? E allora? Sicuramente c'è pure un Mariolino che arriva in basso, no? Mi sembra che era Ed. No, Gianni mi ha fatto ridere, questa antenna è favolosa. Cazzo, se non ascolti il sorso un portatile, e come me io ad Alghero li sento anche con i portatili, cosa c'è? Favolosa, a prescindere da... Oh, non ci crederai, stavo usando un'antenna di macchina attaccata al portatile. Arrivavi anche qua, segnali uno, ma non capivo chi era. Cappa, magari con l'antenna sua arriva meglio. Sicuramente, fra, pensavo che era Mariolino. Aspetta che ti chiamo, me vado fuori. Prova a vedere, lo vedete scherzando. Ti ho capito, mi hai fatto ridere. Cazzo, se non ascolti il sorso tu, ce l'hai attaccato, gli ero grido, come mai Alghero, non c'è niente da fare. Vabbè, comunque è colpa di Luca. Ciao Claudioschi. Ciao, mi sto aspettando a Massimiliano, che devo dare i microfoni a provare, vediamo se è già arrivato a Sassa, adesso le mando un messaggio. Marco, adesso ti chiamo Permaflex. Eia, più che appropriato. Beh, mi piacerebbe fare il collaudatore di Materassi, Mi piacerebbe. Anche a me, ma non per dormire. Allora te ti chiamiamo Spermaflex. No, io voglio controllare le molle se vanno bene. Già ho capito. Natalino, non vorrei monopolizzare. Natalino, guarda WhatsApp. Guarda in alto a sinistra, c'è il trasformatorino. Quasi attaccato a destra del trasformatore c'è il condensatore. E alla destra del condensatore, un po' distanziato, c'è W501 a mod. E ho detto tutto. Io ho capito tutto lo stesso. Ciò che non trovava. Eia, io non mi ricordavo che c'era scritto AMOD, che vuol dire AM Modulation. Dalla gara, adesso magari esce la bomba. Sì, già, io mi ricordo da appena comprato, era chiuso e c'era una notevole differenza una volta aperto il trimmer. E... già, ho sentito Antonio e mi ha detto che non ce la fa perché non è in macchina sua. Allora, se ce la fa, passa, altrimenti un altro giorno. E vabbè, come vuole lui faccia. Io ce l'ho qua, poi... se vuole passare, se no passa quando vuole. Ok, l'ultimo altro messaggio, Regio, e poi ci sentiamo dopo. Io sto scendendo un attimo giù, che sta venendo Massimiliano a prendere il microfono. Allora, V501 a moto, così è. Eia, ingrandisci l'immagine, te l'ho detto, trasformatorino, condensatore, a destra c'è quello lì, quello è. Solo che quasi non è piccolo, è microscopico, è una cosa folle. L'ho visto, bianco è. Oh signore, dovrei vedere adesso. Al contrario mi ha detto che si gira, così è. Che io ricordi sì, tanto mi se vai da un'estremità e non esci, e dall'altra esci, cioè si capisce qual è. Infatti io sono andato a tentativi, anche perché non trovi fondo corsa, non... mamma mia, poco sono piccoli e pericolosi, ma proprio micro pucci. Lo so, ma adesso me lo guardo. Ah, poi la tua mano dovrà essere una piuma, anzi più leggera di una piuma. La pagava, ma ancora non ho deciso, boh. E io spara. Io ti ho detto, Luca, la soluzione qual è? Tu se sei indeciso tra un apparato e l'altro, fai come me, comprali tutti e due. Sì. E quindi dai il gaggo. Sicuramente al momento sei più ricco di me. Sì, direi di sì, decisamente. Non le bussi, non lascia perdere, vabbè, lasciamo perdere. Non tocchiamo quel tasto, ma non le bussi come ti dici tu. Luca, chi è? A me mi è andata male, lo sai, mi ha smontato la cassetta e spaccata sotto, e filà. Spaccata da prima era, o l'hai spaccata tu? Oh, come mi è caduto quel tappo, te l'ho detto, mi era caduto il tappo dentro, ho spaccato la cassetta. E allora, sei già battuto. Tutto vuole cambiare. Eh beh, organizzati. Se vuoi avere una mano, non ce ne sono problemi, non è che vuoi un diploma. Non è quello, è il fatto, se trovo solo la cassetta, ok, però devi trovare quella che va bene lì, capito? Se non va bene, non la potete, non è che siamo tutti uguali. E guarda, il modello, che modello è, già. No, ne ho già parlato con un amico che fa l'idraulico, ma ecco che non si trovano, che se posso, se ne busca qualcuno a lui, adesso vede, mi sta facendo un giro e se ne busca. Ah, ho capito. Quindi niente apparato, presa diversa questa volta, per il cesto. Ma bisogna che mi compro giù la bicicletta a pieghe, vuole mio. Sto guardando qua, bellina, per spostarmi. Una bicicletta? Sì, con la pieghe, vuole. Per mettere nel cofano, e quando mi scendo dal ghero, me vado in giro in bicicletta. Ah, con Marina. Allora, una lira a me, no, due. Ah, pensavo in due. No, sì, due. Una bella idea. Il problema è trovare parcheggio al ghetto. Se no un tandem, e io trovo sempre il parcheggio. Infatti se lavori pure in casa in una macchina, tanto se in bicicletta fai prima. Ah, vero. C'è cosa più bella, a meno ti fai... alla fine sempre passeggiando, pedalando, sempre facendo... come si dice? Sport, dai. Ehi. Oggi va bene. Una buona idea, poi Alghero già si usa molto la bicicletta. A voglia. Dietro vi buttate una destra a manca. Qua invece le trovi legate. Sì, ma ti ho fatto lì. Non posso rispondere, sto operando. Aspetta che mi metto anche la mascherina e i guanti. Poi? Ok. chirurgo sei diventato? Quelle piccole, quelle ruote piccole, le elettriche, 500 euro costa. Ah, chirurgo sei diventato, Pappalino. Aspetta, ma ti stai autoascoltando, perché ogni tanto fischia. Già lo so, se mi avvicino all'apparecchio fischia. Mi devo avvicinare molto all'apparecchio, se no mi innesco. Ehi, questo cosa potrebbe essere? Serpente con DM1000, può essere? Cosa? Questo cosa può essere? Serpente con DM1000? No, com'è serpente? Ah sì, serpente con DM1000, ma ci sono pezzi di altri apparati, di altri microfoni. Ehi, ehi. Bella piena, con modulazione, bella piena. Io vabbè, preferisco quello col bip, come si chiama, vabbè, già hai capito. Quella è più cristallina, dai. Gusti, gusti, a molti piacerà questa, a molti piacerà più quella. E questa qua è anche con un apparato omologato, la radio, diciamo, abbastanza accettabile, dai. Per come era prima, che era bassa bassa. Sì, infatti c'era un periodo che uscivi più cupo, infatti ti stavi un po' sconfortando, ma era tutta questione di adattamenti, di regolazioni. Ma infatti l'apparecchio è buono, gli adattamenti di microfono, capsule e via dicendo. Vabbè, già nella carcassa del DM1000 ci ho fatto stare un altro, un'altra composizione di un altro microfono. Allora, c'è un microfono americano che dovrebbe avere la stessa buccia del DM1000, però anziché il tono, quelle rotelle posteriori sono una l'amplificazione e uno il tono. Ha un nome particolare quel microfono. E sembra che siano soddisfatti, però vabbè, gli americani bisogna diffidare. A loro piacciono le astatiche, a me non sono piaciuti niente. Provati da me gli astatic. A me sono piaciuti gli astatic. Io ho avuto il diavolo rosso, il devil, come si chiama? Devil, vabbè, il diavolo rosso comunque, red devil, e praticamente ho avuto quello lì e non mi piaceva, mi diceva che la voce me la faceva come cupa, non cupa, c'erano medi alti, capito? Non c'erano bassi. Sì, sì, è vero, è troppo ricco di alti, è metallica a volte, potrebbe essere anche gracchiante se parli vicino, cioè, comunque guarda che Rod Devil era molto, ma molto meglio di quello che ho preso io dall'America, quello che aveva, che era nero, con la griglia cromata tonda davanti. Quello, guarda, o è difettoso o comunque è brutto, brutto, proprio metallicissimo, anche a Gaza già, scusate il termine. Per il Devil l'avevo pagato anche un bel di soldi, e pare sugli 80 euro. Break. Sì, in fin dei conti è registrato, in fin dei conti in Italia costa sulla settantina di euro o giù di lì, poi con la spedizione arrivi a 80, avanti break. Ciao Marco, Franco, ciao Franco, mi puoi dare un controllo di segnale solo e non di radio, se c'è qualcosa da fare. Allora, sei Gianfra, prossimo al 9, sei più di 8,5 o poco meno di 9? OK, comuto. Ecco, dimmi adesso cosa è successo, è calato ancora? No, no, adesso è impennato di brutto a 9 più 15 circa. Sì, 9 più 15 diciamo, a questo Smith. Cerco di interpretarlo al meglio. Bene, bene, più stazionaria, più segnale, andiamo benissimo. bene, bene, bene, dai, fate girare. Natali, mi raccomando, fatti tamponare la fronte da Concetta, dall'assistente, come i veri chirurghi. Non c'è, sono da solo. Tamponati la fronte da solo, allora. Vabbè, l'ha provato questo microfono. A me già? No, Natalino, per vedere se esce più forte. Gli avevano suggerito di modificarlo per uscire più forte. Io avevo consigliato l'apparato innanzitutto, di migliorare già l'apparato. Potrebbe anche essere sufficiente, perché tanto mi già, anche te l'ho detto, modulazioni troppo spinte, alla fine sono spacca orecchie, io rimango con Rix, dai, vi saluto, sto per addormentare, ma sto prendendo un colpo di sonno. Guarda, se io mi metto a letto adesso mi addormento, mi addormento, però alle 6 voglio fare le merendine alla parmigiana. Buone, buone. Col pane, mamma mia che buone. E oggi era il compleanno di Marco e io ho fatto un pranzo, diciamo, abbastanza a teccio. C'era antipasto, acciughe marinate, c'era prosciutto, salame, eccetera, eccetera. Poi c'era la pasta al forno. Ho comprato il tonno a tranci di quello grosso e l'ho fatto buonissimo, buonissimo era. E poi la torta, tutto questo, ho mangiato un mese. Eia. E cosa gli hai regalato? La macchina? La pianola Yamaha. Ah, bella. Non so per suonare io, invece schiappa. Io da bambino ho avuto quelle buon tempi, ma no. Non c'era feeling. E lui ha voluto quella, la sorella gli ha regalato il rasoio per farsi la barba a quello elettrico e noi io e Lidia l'abbiamo regalato la tastiera e in più gli abbiamo fatto la torta, insomma, già beccato. Vai. Sì Marco, di nuovo io, com'è adesso il segnale? Ha aumentato un pochino? Allora, 9+20, però la radio è peggiorata, è un po' più saturizza. Ah, troppo forte, forse sto parlando troppo vicino. No, è tipo saturazione da wattaggio, non saturazione da microfonia troppo alta. Gianni, cosa ne pensi? Non ascoltare niente. Chi altri c'è? Luca? Ho un video, ma tanti fa. Che Gianni c'era andato? Oh, già c'è, però si sta un po' assopendo. Eia. Dicevi Gianfra, quindi capito, è un po' saturazione come se fosse da troppi watt, non da microfonia troppo forte. Sì, ho capito. In Australia hanno detto che andava bene comunque. Ascolta, adesso ovviamente è al solito, quindi pochi watt, i pochi, 2 watt, sto scendo, sì. Sì, migliorata. Cosa hai toccato rispetto al passaggio? No, ho attaccato il carico fittizio, ho messo l'antenna, tutto lì. No, ma appena sei arrivato a 9.20 c'era già l'antenna, non era il carico fittizio. Bene. E io staccherei quasi, vediamo. Poi veniamo sempre a qualcuno, che da quando si può uscire un po' più, non dico liberamente, ma c'è meno affluenza qua in radio. Pensa che ho mosso la macchina dopo circa 2 mesi, no? Gli ho caricato la batteria perché si era scaricata ovviamente. Marco, attenzione che non si può uscire in realtà, cioè devi rimanere entro il comune, sempre entro il comune, la zona comunale. Cioè sì, non liberamente, sono andato a fare la spesa, mentre prima la facevo tipo qui da Kobeck a prezzi pieni, sono andato da Lidl, dietro lo stadio, no? Dietro vicino a Piazza dei Segni e mi sono fatto una bella spesona, almeno lì ci viene tanta roba. Certo che ancora ho paura che non ci facciano godere nemmeno dall'estate al mare. Per la vigile urbana misurarci il metraggio, quanto siamo distanti, per carità, come la pelosa che ti contano i chicchi di sabbia sui piedi, andata, va. Di no. tutta colpa di coso lì, di Solinas, perché in realtà noi potremmo, secondo il decreto dello Stato, potremmo andare in tutta la regione tranquillamente, mentre invece Solinas ha sforbiciato molte cose. Comunque vabbè, andiamo a vedere cosa succede il 14. Ma no, per dire, cioè, cosa vale di più, quello statale o quello regionale? Uno dice, se siamo nella regione, vabbè, forse no, perché allora, cioè, a partire da cosa, il governo dice una cosa, il cosa della regione dice un'altra, il sindaco della città ne dice un'altra ancora, ognuno si fa il suo piccolo feudo, il suo piccolo reggimetto, e ci perdiamo noi sempre. Sì, è successo proprio quello. Stavo parlando stamane dai carabinieri e me l'hanno confermato. Quindi in Sassarese sei un estriccio, no? 100 gavi, 100 barretti. Tra poco troverai anche, che ne so, il presidente della circoscrizione che ti impedisce di uscire di casa. Sì, sì, ognuno si fa quel poco di potere che ha, lo usa a pieno, pur di limitare sempre le vite degli altri, no? Lui magari ci avrà la spiaggia privata, il signore presidente della regione, Putinusu, vabbè. Natalino, notizie dal fronte? Ma cosa vanno, picchia? È sparito anche lui, forse sta, vabbè, facendo prove in altri canali, vediamo. Mamma, li turchi. Che sonno devi fare? Marco, non fare così. Guarda, preferirei, oggi mi sono alzato prima, vabbè, nonostante abbia dormito dall'alba, no? E preferirei farmi un pisolino che non mangiare, lo sai, e mangiare dopo al risveglio. Così proprio pranzo a mezzanotte, no? Mi fa ridere quando dici, e beh Marco, tipo alle 9 di sera, beh colazione l'hai fatta. Marco! Eia? Guarda com'è questa modulazione con le MB più 4. Porca miseria, io ho alzato il volume rispetto a prima. Già fatto che l'orecchio clinico, come la senti? Io la sento benissimo, benissimo, veramente bene. Prima era, non dico bassa, ma rispetto a questa era sicuramente più bassa. Adesso non è né troppo alta né troppo bassa, va bene. Ce l'avessero tutti così la radio. E aspetta un attimo, adesso è a manetta il microfono, guarda un po' Gianfranco. Adesso sta iniziando un po' ad andare a essere troppo, il troppo studia. Troppo forte, perché no, ancora non l'ho aperto, aspetta un attimo, che vedo una cosa, sto facendo un esperimento. Tieni presente che ti porti anche il vento, le ventoline, cinguetti, vero Marco? Natali, ma tu fai le prove tecniche di trasmissione radio con Gianfranco e con Marco, che odiano l'alta velocità dei microfoni, ma falle con me le prove, aumenta, tira su. E così va fuori banda, no? Che bravo. Aumenta tutto. E così tornando all'escolario. Ehi, esci una frutti, di saluta e fate un caffè. No, no, però Natalia, aspetta, le prove. Allora, prima di tutto metti il mic normale, non amplificato, perché già quello, metti quello normale, poi metti il mic gain a 63 da menu e poi muovi quello che devi muovere e ci fai sentire la differenza, però così ti diciamo se sta abbassando o alzando. Però col mic normale, cioè se già ti confondi con l'amplificato alza e abbassa, non ci siamo, è NCS. Non sta uscendo. Tutto bruciato. Spesso ho detto lamentare e non si sente più. No, ti ho scherzato. calma Gianfranco, va bene anche così com'era. Natalì, non stai uscendo? Abbassa un po', Craga, se no stiamo il volume alzando e abbassando. Chi deve abbassare io? Cosa devo abbassare io? 40 anni che uso questo microfono così, cosa devo abbassare? Sonia, povero analizzato di spettro, tutto quello che vede. Oh, Claudio. Oi. Adesso scendo sto. Sì, perfettamente bene. Adesso sta amplificando quel microfono, va bene. Volevo sapere quello, va. Va, adesso va. Natalino, con che microfono sei? A quanto è il mic gain? A 63 il mic gain. Ho aperto quella storia che dovevo aprire perché al contrario è chiuso. Ah, quindi quando non stavi uscendo era la direzione opposta, ho capito. E infatti già comincia già a scintillare, bella là. Come che dici, Claudio? Schiccettare, come che dite? A scherreggia. Però ci sono anche dei rumori sotto, forti. Vabbè, ma se sono ventole, portate che non siano alternate, roba all'ompia. I soliti scricchioli di vari. Metti portata Natale senza parlare. Allora, è senza parlare adesso. Senza. È un rumore che si sente dall'altro palazzo. Infatti si sente come muove il dito, quelle cose lì, tum, tum, tum. Vabbè. Oh Natà, il microfono a quanto l'hai messo? Il microfono. A metà adesso. Solo per un attimo, tu stai ovviamente a 30 cm e oltre, minimo 30 cm, prova a metterla a 10, a sentire se fa l'effetto sasso frasso. Guarda, adesso è vicino, a 10 cm come hai detto tu. Però non l'ha compreso, no? No, Natalì, no, volevo dire, stai a 30 cm minimo e alza il volume del microfono a 10, quello volevo dire. Avanti, adesso è 30 o 40 cm ed è a 10. Claudio, come ti sembra? Vabbè, comunque già si sente la... cioè adesso è... in confronto a me, Gianfranco ha una modulazione minuscola in confronto. Anzi, per Gianfranco devo dire che devo alzare il volume e per voi devo abbassare adesso. Ma io sono lontano, comunque lo strumento mi dica che c'è anche un discreto picco, Quindi... Diciamo che la modulazione normale Gianfra sarebbe la tua, no? Quella più. Le altre sono più pompate. Comunque bene. Sei contento Natalia? Sì. Bella radio forte, Fai sentire Natalia. Sì, guardami. 1, 2, 3, prova. Bella, Sulla radio, allucinante. Poi figurati se facessi la modifica all'MB più 4, però lì comincia veramente a sbarellare, troppo, sarebbe troppo. È già modificato questo microfono, se no non amplificherebbe così. Sicuro? No, perché io ho sentito certi... la modifica delle lamelle, avevo sentito parlare di lamelle, ma diventava una cosa spropositata, Così già va bene, là. Ehi. Vuoi provare in FM? Gianfranco, ce l'hai l'FM? Sì. Io provo a... questa è greca FM. Beh, allora, lasciate una M, chiama l'FM non mi piace. Che bega, bene che FM siete. Ma adesso in AM, dai. Comunque, dai, già andrà bene. In FM è meglio non toccare nulla. Cappala. Adesso ce lo rimetto a posto e parlo con l'altro. Ciao. Andate a vedere la radio qua. Adesso va bene, adesso va molto bene. Non ho compreso perché non puoi parlare con quella notte lì. Vabbè. Dunque, vabbè, l'ha fatto, l'ho mandato a posto, vabbè. Vabbè. Siamo un paio di mattina dentro l'armadio, già che sono un paio già fa. Cava, sto aspettando a Massi, mi deve chiamare. Bene. almeno il canale si muove. Mi dia un controllo, Cla, sto usando un 48 normale. Da 48 normale, 9 più 10 radio 5. Andavè. Cazzo, 9 più 10, allora sto qua toccato, Ma no, tu uno stasera. Ti. 9 più 10 arrivi, quando abbassi la radio tua a pochi watt. Avrà 6 watt, il mio ne ha 8 ad esempio, della 48. Anche questo, 8 diciamo modulati 9, là, non ci arriva neanche a 10, se fischio 10, vabbè, ne abbiamo resumato da un capannone, volevo vedere se funzionava, tutto rugginoso, bovaraccio che... Okay. Rugginoso già si può mettere a posto, sì, e gli hanno sollevato il trimerino dei watt. Niente, nessuna modifica, anche io l'ho aperto da nuovo, messo sotto il watt e metto, l'ho portato a 8 watt, che è il massimo che può dare, va bene così. Andare, aspetta che se riesco provo anche un'altra cosa. Linus. Ciao Marco. Guarda che abbiamo procurato una foto molto dettagliata di quel apparecchio comune, no? Conferma, c'è scritto AMOD, c'è una sigla e AMOD, quindi non si sbaglia. Ma credo che tu abbia risolto tutto ormai, no? Tutto fatto. Sì, già fatto Marco. Io lo lascio così, capito? Non c'è problema. Lo lascio così come va bene a me. Volevo solo regolare il beep e la velocità del beep. Vabbè, aspetta che attacco una cosa così voglio vedere se riesco a farlo funzionare. Non è detto. Natalino, legge il messaggino. Quello lettino è già a posto. Quello lettino gliel'ha fatto Fabri. È già a posto quello lì. Anima lui spinge un bel, vabbè, c'è la modulazione diversa, Natalino. Spinge un bel, già va bene. Comunque l'antenna già sta uscendo bene, beh. Dobbiamo lasciarlo così, non toccare più niente. Ehi, Luca era indeciso. Deciso cosa comprare, no? Luca, ci sei? Sono sempre indeciso. Cioè, conta una cosa lui. Cioè, col 3009 è come essere col Tornado, sembra lo stesso apparecchio, cambia il colore, c'è il cromato, ma alla fine c'è sempre lo stesso apparecchio. Se vuoi provare qualcosa di nuovo e di efficace, vedi tu. Comunque mezzo mondo l'ha preso, senza scherzo, mezzo mondo, mezzo pianeta ce l'ha, perché con tutti i nomi che hanno fatto è sempre quello. L'hanno chiamato addirittura l'erede del Pluto, anche se io ho detto calmi però, vabbè, l'erede del Pluto, mi è piaciuto a molti, dai. Lo so, solo vabbè, poi magari quello bisogna fargli altre cose, a parte, vabbè, già me lo mandano per la 27, ecco. In più poi bisogna aumentare la LC, bisogna aumentare i watt, se vuoi che esca come Dio comanda. Ma quale? Il 3009 o l'altro? Il 3009. Ma non sei obbligato a alzare i watt? Cioè, io ho lasciato 4 watt, sia questo che l'altro, 4 watt, 12 SSB, e tu mi dici perché? Perché alzandola 8 guadagni una miseria e perdi in radio, cioè più watt li dai, anche il profeta col suo, cioè si è accorto che più watt li dava e più perdeva in radio, meglio avere bassi watt. Poi se devi pilotare qualcosa per il segnale lo piloti in basso e avrai risultati migliori anche come segnale e anche come radio. Vai Claudio. Aspetta, ma i finali sono sempre SMD? SMD, MOSFET, cioè non sono i vecchi 1969, hanno la stessa forma ma sono MOSFET, sono già migliori se vogliamo. Cioè, qui guarda, ti spiego, questo fino a 6 watt, ti faccio un esempio, fino a 6 watt la radio è ancora buona, così come la senti adesso. Se cominci già dai 7 in poi, va sempre più a chiudere la radio. E mi dispiace, ma io preferisco pochi watt, ma una radio brillante, che non... E qua è l'errore che faceva Pomponio. pugno col Connex, metteva 10 watt e aveva una radio bassa e satura, che senso ha? Nessuno, guarda il messaggio Marco, ci vuole poco ingresso e così la radio è chiara, se tu metti molto ingresso te la satura. Beh, quello col lineare però, se non usi lineare, vabbè, comunque buon averlo. Anche una cosa minima, tipo, no? 203, costa poco, vale quello che costa soprattutto. Ecco, dai, un attimino mi assento che vado allo smartphone e poi devo andare in cucina a cucinare. Riprendete voi, vai Claudio. Io ho cambiato radio, dai, sto andando col dati. Sì, ma infatti lui. Condivido ciò che ha detto Marco, perché è così. Io guarda, posso portarlo anche a 15 watt, a 20 watt, però l'ho messo a 5 watt. 5 watt perché così posso agganciare qualsiasi tipo di linearetto e avere una modulazione stabile, buona, senza rotture di balle, capito? Fai le altre modifiche e i watt li lasci così. Mi sto guardando il video su come si chiama? Su YouTube, nel seminario V6. Vabbè, come va? Va bene, no? Sto guardando qua. È tutto in francese, in inglese. Va bene allora. Controlla, guarda un po' se è tutto capo di Rogero, però ti ripeto, io condivido, i watt si lasciano sempre come sono, perché poi se vai a agganciare la linea retta devi aprirlo di nuovo, abbassare, a meno che non c'è la regolazione come c'ho io c'ho la regolazione esterna, proprio da potenziometro, power, quindi lo regolo come voglio, però anziché portarlo a 12 watt in AM, mi pare che a 20 o 22 in SSB, l'ho messo a 5 watt, lo tengo a 5 watt, anche adesso io sto andando con 5 watt e va più che bene, capito? E poi così ho la possibilità di agganciare il linearetto e aumentare il segnale un po' di più. Oh, sembra che abbia un'ottima ricezione, perché qua ci sono entrambi, c'è quello digitale e quello analogico, questo ce l'ha tutti e due. Sì, lo conosco bene, l'ho avuta quella radio, ti ho detto. L'ho avuta, me l'hanno data a usarla, poi l'ha venduta, ma potevo anche tenermela per il prezzo che me la stavano dando, capito? 100 euro ne volevano, ma dentro la scatola nuova, mai usata, solo che io non me ne faccio niente dei baracchini, capito? E quindi l'ho restituita e l'ha venduta. KK e K di Rogero, va bene. Non lo so, no, lo usaccio, non lo usaccio. Quando uno non è sicuro, è alla fine così. E caso con tu? Lui te l'ho detto, devi essere schietto, compro quella. Io ti ho detto che è un'ottima radio, forse la radio dell'anno. Ottima, in tutto e per tutto. Poi devi vedere tu, capito? Poi devi vedere tu. Non so se c'è qualcosa di meglio. Ce ne sono altre, esatto, dai, però. Ma addirittura me l'ho mandato una a $500. Il Cobra non so cosa è, qua c'ha tutto, Qua da 25 a 30. E Cobra ce l'ho avuto anche io, quello, ce l'ha anche Massimiliano. Ma il GTLX però, versione da 200 watt, è quello che c'è Massimiliano, no? Non come quello che c'è Gianni, no? Quello che c'è Massimiliano, quando c'ha due potenze, una bassa e una alta, la bassa potenza da 5 a 30 watt, l'alta potenza da 30 a 150. Claudio? Sì, chi è? Guarda un attimo se cambia, guarda il segnale, così è normale. Ehi, sei sceso da 9 più 10 a Santiago 5. Ma contrari. Ah? Adesso quanto sono? 9 più 10. A Santiago 5. Ehi, hai detto cambia qualcosa, sei sceso a Santiago 5. A parte il fatto che la